lanciata da se stessa. Arte non appartiene a nulla se non a sé. Dante e piante il grido primitivo. Arte e succo d'ambrosia e d'uva. Arte è bolla di pensiero. L'arte è specchio di sé. Arte è voce terrestre. Arte è eco divino. Arte è un po' di me. Arte di te. Arte di noi. Sganciata da se stessa. Arte non appartiene a nulla se non a sé. L'arte non appartiene a nulla se non a sé. L'arte è voce terrestre. È eco divino. Arte è voce terrestre. È eco divino. Arte sganciata da se stessa. L'arte non appartiene a nulla se non a sé. Arte non appartiene a nulla se non a sé. Arte in un gioco libero di mani. L'arte prefigura la realtà.